fa partire, nel nostro caso era la Debian, insomma, no? Allora, Con che criterio metti più uno, cioè più uno, sempre c'è in cioè loader, no? Più 2, 3, 4, no, sempre più uno. sempre più uno. Cioè, sono tutti uguali. Cioè, questa era Debian. Fedora cambia Cambi la la. partizione su cui lo fai contare. Sta la 4. Allora, chi ha già usato Linux sa che come vengono nominati all'interno i dischi e le partizioni. Oggigiorno SDA, SDB, SDC sono i dischi, SDA1, SDA2 sono la partizione 1 del primo disco, la partizione 2 del secondo disco. Fino a un po' di tempo fa c'era di mezzo anche HDA, HDB, HDA1, HDA e HDB che si riferivano al disco, al primo disco, al secondo disco, HDA1, HDA2 che si riferivano alla prima partizione del primo disco e alla seconda partizione del primo disco. Grub usa un sistema suo, nomina HD0 il primo disco, HD1 il primo disco, HD2 il terzo disco, parte da zero. E li nomina da zero. Cioè, già che ci sei, potresti chiarire un attimo come sono queste denominazioni attuali? Perché quando si mettono dentro la cucchiaretta o cose del genere, a me fa un bel casino perché non capisco più cosa sono alla fine. No. Cioè, SDA è sempre il primo, SDB sempre il secondo disco che è sulla macchina e dopo, cioè, Se si inserisce una chiavetta. Se avevamo, non so, in questo caso ho un disco SDA, basta. Se inserisco una chiavetta diventa SDB. E qualsiasi altra memoria che aggiungo, cioè metto una chiavetta, metto una memorietta SD nello slot con la chiavetta inserita, lo vede come un terzo disco la memorietta e quindi la chiamerà SDC. E via così. Nel caso di due hard disk messi su due attacchi IDE diversi, Ide. sì. E il secondo disco è HDC? No, SDA e SDB di solito, No, oppure ma può essere ecco, ma HDA e HDB. sì, HD. Però io dico questo, sul primo attacco ci stanno due HD potenzialmente, sul secondo attacco potenzialmente altri due. Sì. Allora, come vengono distribuiti i numeri? Perché in teoria sono quattro al limite. Sì, diciamo che già precedentemente il BIOS gli dà un ordine, cioè Sì, mi diceva due, sicuramente. due controller, già il BIOS gli dà un ordine a questi due controller. Poi nel caso di IDE uno bisognava settarlo master E e uno l'altro slave, slave, e allora il sicuramente. master è il primo e slave è il secondo, Che diventa B. B il secondo. E quindi il secondo è Il primo l'altro dell'altro diventa controller C. diventa C. Ah, ecco, questo è. Sì, e poi c'è un po' di mezzo anche il fatto che c'è il lettore, che va a inserirsi anche lui. E anche lui, viene gestito come fosse un disco. Ce lo ritroviamo come SDC, magari, insomma. Precisazione. Non guasta. Allora, il sistema nuovo in cui i dischi si chiamano SB Indipendentemente che siano IDE e o serve SEA. tra l'altro anche la proprietà, diciamo, che i dischi vengono nominati man mano che vengono trovati, quindi A, B, C, D e via dicendo. Invece con il vecchio IDE c'era il nome derivava dalla topologia di come erano connessi. Come diceva lei, tipicamente su una scheda madre avevamo due attacchi per mettere la piattina IDE, ognuna con due dischi. Quindi A, B, C, D dipendeva in realtà da quale attacco, in quale attacco era messo il disco. Se per esempio avevamo dei buchi in queste quattro possibilità, c'erano dei buchi anche sui nomi, magari A e C direttamente, se avevamo un disco per ogni piattina. Quindi in realtà nel vecchio formato, appunto quello in cui i dischi si chiamavano HD qualcosa, dipendeva dalla topologia di come era messo, come erano disposti questi dischi, proprio fisicamente come erano connessi. Il sistema nuovo invece no, in realtà man mano che li trova, che li cerca nel sistema, anche chiavette esterne eccetera, vengono dati lettere progressive, in questo caso A, B, C, D, E e via così. C'è un po' l'effetto collaterale che se abbiamo, che ne so, due chiavette per esempio, che ne so, la prima lettera libera è la H, giusto per dare un nome, a seconda di quale inseriamo per prima, una si becca H e l'altra G, o viceversa, quindi dipende dall'ordine temporale, insomma, in cui vengono trovati i dischi. Sì, però ci sono state, sono stati comunque svolti, sono stati aggiunti comunque altre tecniche per comunque identificare univocamente i dischi, non in base a quando vengono messi dentro o dove, ma tra virgolette, diciamo così, dando loro un nome o un numero seriale univoco, per cui di solito non ci sono comunque questi grandi problemi. Un buon comando, quando abbiamo un sistema acceso, abbiamo i nostri dischi, partizioni, aggiunto chiavette, messo dentro memoriette, non ci capiamo più niente, un buon comando da riga di comando come root, fdisk-l, l sta per listing, dammi la lista, da tutta la lista di quello che è attaccato e dalle dimensioni, anche dalle partizioni, mostra tutte le partizioni di ogni disco, si riesce a fare un po' di ordine. I dati che uno teoricamente tira fuori dall'FDisk sono gli stessi che poi compaiono nel root, in quella istruzione root del GRUB, o il GRUB ha una sua convenzione. Allora, adesso lasciamo perdere le chiavette e le memorie e ragioniamo solo sui dischi. GRUB ha un modo diverso di numerarli, chiama HD0 il primo disco, quello che invece nel sistema viene chiamato SDA, HD1 SDB, questo sì. Perché anche nel file di configurazione di GRUB glielo dobbiamo dire nella sua lingua. Scusa, e c'è anche una differenza sulla numerazione delle partizioni? Sì, nel senso che come per i dischi, anche per le partizioni parte da zero. Quindi HD0,0 è primo disco, prima partizione. In questo caso HD0,4 significa SDA 5. Se posso aggiungere anche un'ultima cosa, se noi cambiamo la sequenza di boot del BIOS, l'HD0 che era il disco di boot, dopo diventa H, potrebbe essere 1 o 2 a seconda di come le sia ordinata nella sequenza di boot. E mai è successo che smanettando col menu certo. List avevo cambiato una sequenza di boot e non mi ritrovo più l'HD0, quello che era prima, e quindi dopo non butta più. Non parte più, a meno che non ci sia scritto qualcosa nel master boot record del disco 1. Sì, oppure lo metti dentro, c'è un altro filetto di configurazione dove gli specifici geometri, non mi ricordo, insomma, gli specifichi quali sono i dischi, l'ordine che ha, una specie di mappatura tra il BIOS. Sì, col BIOS si possono un po' cambiare le cose. Diciamo che a riguardo si può andare a scrivere anche il master boot record del secondo disco, del terzo disco, insomma, e poi giocarsela e andare a scrivere dei GRUB diversi in ogni master boot record e poi da BIOS andargli a dire da quale disco partire. Bisogna essere un po' consci di quello che si fa, si può anche fare. Io ho una macchina vecchia in cui ho Lillo invece, sì. E lì riesco a invertire i dischi e fargli vedere Windows, cioè su un disco c'è Windows, dall'altro c'è Linux, ognuno vede il disco dove risiede come disco C, il master, diciamo. ha un funzionamento. Però comunque un club non so come si potrebbe fare. C'è il mappa. A fare in modo che uno non veda l'altro. Che il BIOS inverta i due dischi. Beh, se si parte da Windows, che ha il master boot record col suo loader, quando si installa Linux sul secondo disco, si può dire, non alla fine dell'installazione fa in automatico, bisogna durante l'installazione dirgli di eventualmente non installare Grub, perché sennò lui andrebbe a scriverlo nel master boot record del primo disco, e successivamente installare il Grub e andarlo a mettere nel master boot record dell'altro. Esatto. A quel punto poi da BIOS gli si dice se far partire l'uno o l'altro. Allora, sarà più chiaro se riesco, sì, se riesco a finire. Allora, tornando un attimino indietro, dicevo che generalmente per fare cose magari più complesse di un paio di sistemi operativi, Windows e Linux e basta, in genere prima di iniziare l'installazione vado a creare il posto per farlo. Ho visto che non è sufficiente creare lo spazio, lasciarlo libero e dire alla distribuzione che vado ad installare poi usa tutto lo spazio libero che trovi, perché fa magari casini, perché Ubuntu ha il suo schema, usa quello. La cosa per non incasinarsi migliore è creare la partizione di destinazione, creare lo spazio, creare anche la partizione e durante l'installazione dirgli di andare a mettersi là. E questo così non ci sono problemi. I problemi possono esserci quando ridimensioniamo le partizioni, ovvero se ne ridimensioniamo e ne creiamo una, in genere non succede granché, ma siccome se vogliamo magari fare un po' di ordine, cancellare un paio e creare quella dove andiamo a dove vorremmo installare il Linux, in tutto questo Gparted succede che dà numeri diversi anche alle partizioni che avevano prima un altro numero, cioè se c'era 1, 2, 3 partizioni, una la restringo. Se una la restringo e ne creo una nuova non succede niente, ne cancello la 2, restringo la 3 per fare uno spazio a una quarta, può succedere che mi scombina e Grub non gliela fa più.